Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Dal vaccino che possa combattere il cancro, agli alimenti in grado di prevenire patologie, dai nuovi metodi che ci permetteranno di curarci tra 20 anni, al rapporto tra scienza, società, etica e poteri decisionali. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno al centro della 13ª edizione di The Future of Science, la conferenza mondiale promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi, dalla Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera, che si aprirà domani a Venezia. Il primo ospite di Obiettivo Salute di oggi è il presidente della Fondazione Veronesi, professor Paolo Veronesi. Quest'anno abbiamo deciso di dare uno sguardo sul futuro, la vita di domani, come si vivrà tra 20 anni, con un particolare riguardo alla alimentazione e quindi alla sostenibilità delle politiche di nutrizione mondiali, a quello che arriverà sulla nostra tavola sia in termini di salute ma anche in termini di fame nel mondo, come eradicare questo problema che ancora oggi affligge più del 10% della popolazione mondiale. E l'altro tema grosso sarà la medicina di precisione, come evitare la maggior parte delle malattie importanti, soprattutto quelle oncologiche e cardiovascolari, grazie soprattutto ai dati che verranno immagazzinati nei grandi big data, questi contenitori che raccoglieranno milioni e milioni di informazioni di ogni individuo, per cui ogni medico avrà a disposizione non più solo la propria esperienza, ma potrà condividere l'esperienza mondiale su ogni determinata patologia di un singolo individuo. Uno studio dell'Università di Nottingham e del King College London dimostra che una dieta ricca di acidi grassi omega 3 migliora la composizione del microbiota, cioè dell'insieme dei batteri che vivono nel nostro intestino e che hanno un ruolo essenziale nel promuovere e mantenere la nostra salute. Ma quali sono gli alimenti più ricchi di omega 3? A Obiettivo Salute il professor Giovanni Scapagnini, associato di biochimica clinica all'Università degli Studi del Molise. Gli acidi grassi essenziali sono fondamentali per la nostra vita, sono essenziali e quindi non possiamo viverne senza, e gli omega 3 hanno anche un'altra funzione, servono a far star bene il nostro organismo, al cuore, al cervello. Ora, da questo studio sembra che siano anche molto importanti per la qualità della flora batterica intestinale. Dove possiamo trovarli? Sicuramente quelli più utili, quelli immediatamente utilizzabili, sono molto presenti nel pesce, soprattutto il pesce grasso. La fonte più universalmente riconosciuta è il salmone, anche se da quando è allevato, diciamo, i livelli si sono un po' ridotti. Un'alternativa interessante è il pesce piccolo azzurro del Mediterraneo, sgombro, alici, sardine. Anche le fonti vegetali, che sono quelle che realmente producono gli omega 3, sono interessanti, ma poi dobbiamo ritrasformarli per metterle, diciamo, nelle condizioni ideali per essere utili al nostro organismo. In questo senso, soprattutto le noci e alcuna frutta secca sono una fonte molto interessante. Se siete interessati a conoscere tutte le virtù degli omega 3, ascoltate l'intervista al professor Scapagnini sulle pagine di Obiettivo Salute. Tra poco alla nostra diretta Facebook, che è dedicata oggi alla meditazione, allo yoga, alla scrittura creativa e a tutte le discipline a cui la ricerca riconosce un effetto protettivo sulla salute e sulla percezione del nostro benessere individuale. Ne parliamo con la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico e scrittrice. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melog, io ritorno domani alle 12 quando scocca l'ora della salute. Vi aspetto in diretta Facebook.